collasso spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Okay. I don't want you in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There is a room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the person. No, please. Why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like Dolly, 'cause I know from a night at pillow talk time you call my phone sobbing and sounding all sorry. You were so silly acting all grubby, 'cause you just ain't another girl like me. Plus you ain't worthy of a girl like me. I can do way better than you, it's your glory. Now I'm pulling the chains, so it's flush out my veins, out the drain. Flush, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be neat again. Flush, ditch my boot, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? What I heard was nah, yeah. If you're too nice, too nice, too nice, you can't afford to be sloshed. You've been smoking way too much bush. If you're too nice, too nice, too nice, and you're talking way too much before you get hit with, I suggest you just sloshed. Allora, come ti stavo spiegando, siccome non c'è Stefano W, tu dovresti mettere il W. Ups and downs, ins and outs of your hair. I don't really care with the girl who works here, the what boots reduce the size of your derriere. I don't care how you think I should behave, I can't believe that I changed. You had me whipped and chained, but no more. Shut up and listen, I'm gonna flush you out my system. Flush, now I'm pulling the chains, so it's flush out my veins, out the drain. Flush, no more sin. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be neat again. Flush, each my boot, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? All I heard was If you're too nice, too nice, too nice, you can't afford to be stored. I think the biz smoking way too much bookers. If you're too nice, too nice, too nice, and you're talking way too much, so before you get hit with, I suggest you just flush. Two, but also your friend. I mean. But with a W. Sì, per essere una doppia V. To be a W, we need to be two. Don't mind, you're wasting my time. You ain't got no right. You wait all the pipe. Cause I know five guys who's waiting in line. So best share the slide and say your bye-bye. Sì, quindi voi stasera mettete la veste W. Noi per... siamo la W. Siete... W team. Esatto. Va bene, Yorgos, it's okay, Yorgos, to you. We are the W. We are fantastic, yeah. Now I'm pulling the chains, so it's flush out my veins, out the drain. Flush, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each one will meet my friends. Flush, sorry, love, what was that? What I heard was... If you're too nice, too nice, too nice, you can't afford to be scorched. I think you've been smoking way too much vodka. If you're too nice, too nice, too nice, and you're talking way too much, so before you get hit, or is that suggest you just flush? Cosa succede di là? What's happening on the other side? The other side needs the link. Oh, I see. The link for what? But anytime. Benvenuti a tutti alla 179esima puntata di Coxo Spaziale. Come va? In assenza di Stefano W. Pasquini, il mio amato co-conduttore coxico, mi sono trovata due gran tomi, gran pezzi di co-conduttori che vestiranno il W, più o meno siete d'accordo troppo di mettere... Troppo gentile. Per me, per questa super mega galattica puntata, che avrà tantissimi ospiti. Beh, non vi fate le fottine adesso che stiamo conducendo, no vabbè. E fra l'altro abbiamo anche un ospite internazionale, ma focalizziamoci su quello che è il main theme... Of show tonight. Scusa, tutto il giorno che parlo mezzo inglese, sono un po' incasinata. E allora, questa puntata avrà come super mega galattico ospite epicentro dei contenuti Michele Pascarella. Vero? E per addentrarci, che presenterà, ci parlerà del suo libro che domani sarà presentato qui nelle nostre zone. E intanto per entrare nell'ambito, visto che abbiamo avuto un minuto in più di pubblicità e quindi è bellissimo per la radio, però noi siamo in ritardo, partiamo subitissimo con un brano che ci può introdurre a quello che sarà il tema e la sonorità del libro. Vado? Vai. I go? Yes, go for it. Maybe it's go. Yes. Yes. Disperato, ora la pelle è consumata. Ho viaggiato disperato, la mia marcia solitaria. Ho viaggiato disperato, questi giorni vagabondi. Ho viaggiato le strade, le banchine, i porti. Ho viaggiato le stazioni, con la mappa sui biglietti. Ho viaggiato trasportato da rapidi inverni. Ho viaggiato le paludi, le paure, le parole. Accatastato a gente che non si arrende neanche quando muore. E treni, treni, treni, treni, treni, treni, treni, treni, treni, treni, treni. Ho viaggiato sopra i sempre, mi sono fermato ad ogni mai. Mi aggrappavo alle lancette, dal tempo non si scende, sai. Ho viaggiato in autostop, tra le facce arrugginite. I turni del lavoro che non mi conto in sigarette, ormai finite. Ho viaggiato disperato, la mia schiena e il mio sudore, per masticare aria fritta e comprarmi qualche sapore. Non sono mai stato a New York e nemmeno a Kansas City. La mia strada va solo a sud a nord, in direzione Lidl. Sempre sui treni, treni. Eccoci qui dopo questo brano che si chiama Treni ed è di uno spettacolo teatrale. È con noi innanzitutto Michele Pascarella, come annunciato. Ci sei? Sì, buonasera. Benvenuto. Ciao, ciao Michele. Grazie, sono Gianluca. Grazie a voi dell'accoglienza, grazie. Grazie a te per ciao, essere con Michele, noi. Ciao Michele, Giorgos as well. Ciao. Sì, sì, abbiamo due co-conduttori super eccezionali, uno anche internazionale che viene da Atene, poi ci racconterà nel corso della puntata cosa Cox è capitato da queste parti. E comunque, intanto, rimaniamo focalizzati su di te. E abbiamo introdotto il tuo contributo telefonico con questo brano, Treni, da uno spettacolo di cosa? Introduci direttamente tu, se ti va. Sì, questo spettacolo si chiama Il Volo, la ballata dei picchettini, ed è uno spettacolo prodotto dal Teatro delle Albe di Ravenna. E io sono qui oggi a chiacchierare con voi per qualche minuto per accennare di un libro che ho scritto su uno dei fondatori del Teatro delle Albe, che si chiama Luigi Dadina. Questo libro è uscito da poche settimane e si intitola Racconti su un attore operaio. Ed è dedicato appunto a Luigi Dadina nel Teatro delle Albe, è il sottotitolo se non sbaglio. E domani ci sarà una bellissima occasione per conoscerlo meglio nei dettagli alla Biblioteca Malatestiana di Cesena. Sì, domani abbiamo questa bella occasione, come dici te Fedra, e tra l'altro in uno spazio meraviglioso che è la sala lignea della biblioteca, e per questa possibilità devo e voglio ringraziare moltissimo un'associazione di Cesena che si chiama CatVM e che normalmente si occupa di didattica dell'arte con e per bambini e ragazzi, e che ci ha aiutato a organizzare questa mattinata. Domani saremo in dialogo anche con questa storica dell'arte che si chiama Viviana Gravano e che gentilmente si è data disponibile a come dire, tuffarsi in questo posto, in questa miniera, che è l'esperienza di Luigi Dadina nelle Albe, un'esperienza che nasce nel 1983, anche questo forse vale dirlo perché non è scontato che chi ascolta magari sappia di cosa stiamo parlando. E proprio un brevissimo accenno, solo per dare due numeri, diciamo così, allora, il Teatro delle Albe nasce a Ravenna nel 1983 e a fondarlo sono quattro persone, Luigi Tadina per l'appunto, e poi Marcella Nonni, e poi Marco Martinelli e Ermanna Montanari. All'inizio erano in quattro, oggi sono varie decine di persone che lavorano in questo soggetto, in questa entità, chiamiamola così, che si chiama Ravenna Teatro e che comprende il Teatro delle Albe e una compagnia che si chiama Drammatico Vegetale, che è una compagnia storica nel mondo del teatro per ragazzi di figura, eccetera, eccetera. Bene, ti ringrazio per questa contestualizzazione. Adesso, come natura coxica, vorrei entrare un pochino più nel vivo. Che cosa ha spinto la produzione di questo testo? Come sei arrivato a creare il corpus del libro? E poi se ci sono se ci sono aneddoti che ci puoi raccontare. Tra l'altro, una cosa molto carina è che nella presentazione tu ti riferisci a Dadina come Gigio. Che effettivamente è il suo nome di battaglia, se non sbaglio, che è un nome molto simpatico già di per sé. Sì, sì, beh, semplicemente lui di nome suo sarebbe De Luigi, ma tutti da sempre lo chiamano Gigio, e così anch'io faccio in questo libro, in questi racconti, ecco. Ma io, per rispondere alla tua domanda, vorrei dire forse due cose. La prima ed è questa. Allora, io credo che uno dei motivi miei di interesse, miei come critico e come forse anche studioso di arti performative, il motivo di interesse, uno dei motivi di interesse per la biografia artistica di Luigi Tadina è fondamentalmente, cioè sono tanti, ma uno dei motivi che mi ha spinto ad affrontare questa impresa, che ha richiesto circa 4 anni e mezzo di lavoro, è stato questo: il fatto che Luigi Tadina corrisponde a un'idea di artista molto lontana dalla, come dire, dalla concezione che normalmente tutti noi si ha dell'artista. Cioè, normalmente noi si pensa all'artista come colui o colei che se ne sta a, come dire, tra virgolette, combattere con dei propri demoni, i propri fantasmi, come si diceva una volta, chiuso in una specie di stanzetta o di torre, per poi finalmente usare, come si dice, esprimersi, cioè tirare fuori, diciamo così, quello che ha dentro. Ecco, questa cosa qui non che non sia vera per Luigi Tadina, evidentemente, ma nel suo caso quello che mi interessa è che il suo approccio al fare arte è un approccio molto più, come dire, proteso verso l'esterno, verso il mondo, verso, come dire, un affacciarsi verso ciò che c'è intorno. Non so se voi ricordate quel famoso film di Woody Allen che si chiamava Io e Anni, se non sbaglio, e comunque sono questo film che tra l'altro proprio in questi giorni compie 40 anni, c'è una scena dove sono loro in coda al cinema e a un certo punto spunta Marshall McLuhan, ve lo ricordate? Sì, mi ricordo la sequenza. C'è quell'antipatico dietro che pontifica, eccetera, su Marshall McLuhan, e poi Marshall McLuhan spunta da dietro la pianta, vi ricordate? Sì, io di sicuro. Ovviamente Yorgo sta chiedendo traduzione in inglese, perché sull'italiano non è molto ferrato. Ne è un po' meno pronto. No, più che altro comunque in italiano. Ah, ok. Comunque, insomma, Marshall McLuhan diceva una cosa che secondo me si attaglia perfettamente all'artista di cui parliamo adesso. Cioè, lui diceva, Marshall McLuhan, diceva: l'artista oggi non è più quello che se ne sta chiuso in una torre d'avorio, no? Secondo questo immaginario romantico dell'artista che se ne sta chiuso fra sé ad affrontare le proprie cose interne. Lui diceva Marshall McLuhan, non è quello che se ne sta in una torre d'avorio, bensì è quello che se ne sta in una torre di avvistamento. Cioè quello che si affaccia verso l'esterno e guarda ciò che c'è fuori. Ecco, nel caso di Luigi Tadina credo che questo sia completamente programmatico, completamente intenzionale e completamente caratterizzante il suo fare arte, eccetera. Questo aspetto qua l'ho trovato sempre estremamente interessante, unito ad altri motivi anche più, come dire, più tecnici rispetto al suo fare l'attore. Ecco, forse non l'ho detto, ma forse è il caso di dirlo per chi magari non lo conosce: Luigi Tadina è principalmente, diciamo, appunto un attore del Teatro delle Albe, ma è anche regista, come ad esempio dello spettacolo di cui prima abbiamo sentito un brano, questo Il Volo, la ballata dei Picchettini. È anche drammaturgo, ad esempio questo spettacolo qua di cui si è parlato, che ha debuttato nel giugno del 2015, è anche drammaturgo insieme a Laura Gambi e insieme a Tahar Lamri, il quale è anche peraltro in scena. Ecco. Quindi, diciamo, una personalità artistica sicuramente articolata, variegata e e tra l'altro si completa anche di un aspetto come dire, concretamente legato al fare anche diciamo di ciò che sta attorno al, al teatro in senso, comunemente inteso, cioè attorno alla scena. Sì. Prima vi accennavo a questo soggetto che si chiama Ravenna Teatro, nel quale lavorano varie decine di persone. Ecco, Luigi Dodina di questo di Ravenna Teatro è anche, che è una cooperativa, lui è anche il presidente. Ciò significa che nelle sue giornate, oltre a pensare al, agli spettacoli, c'è un pensare a, detto banalmente, ma se, banalmente, detto concretamente, anzi non banalmente, come ogni mese lui e gli altri come dire, avere uno stipendio. Mm-hmm, quindi sì, potere, certo. Come dice, un aspetto anche molto materiale e molto pratico. Ecco, questa varietà di, come dire, di aspetti del fare arte credo che sia, ripeto, una caratteristica non certo solo la sua, ma nel suo caso molto molto molto molto programmatica, molto vera. E invece rispetto al, al suo essere artista, al suo essere attore sulla scena, ecco, ci sono, lì sono tanti gli aspetti che mi interessano e che mi hanno spinto ad affrontare questa impresa. Ecco, uno degli aspetti che vorrei nominare è questo. Luigi Dodina è nella vita e anche sulla scena una personalità, come dire, non vorrei dire schiva, ma sicuramente non è un pavone, non so come dire, non è uno che si compiace del proprio essere. Più profilato, mostro, diciamo, possiamo dire così? Assolutamente. E questo si traduce spesso nei suoi spettacoli in una forza e un'efficacia che si manifesta però attraverso delle, come dire, uno stare asciutto, uno stare in un modo quasi minimale, quasi, come dire, quasi essenziale, ecco, userei questo termine qui. Questa cosa qua, a fronte invece di tanti altri artisti che pure conosco, apprezzo e stimo, che hanno invece un'attitudine molto più istrionica in termini anche di esibizione, di estroflessione, di dimostrazione, ecco, qui invece in questo caso è l'attitudine, il modo in cui lui in tanti spettacoli, che evidentemente poi stiamo parlando di un percorso tuttora totalmente in attività e lungo 34 anni con le Albe, poi ancora prima, diciamo lungo quasi 40 anni, quindi chiaramente non stiamo parlando di una cosa immobile che è sempre uguale, evidentemente. Mm-hmm, certo. Quindi ciò che è oggi non è ciò che era 10 anni fa, 20 anni fa, eccetera. Però ecco, se posso forse trovare un filo conduttore, è proprio questa densità che si esprime attraverso una condensazione, una asciuttezza. Ecco. E anche la varietà dei toni, dei registri, dal tragico al comico, al surreale, al drammatico, sempre si manifestano attraverso una forma che io oserei definire, anche se non è certo magari una parola che forse Luigi Dodina utilizzerebbe, ma a me verrebbe da utilizzare in questo caso, una forma elegante. Elegante nel senso di mai sguaiata, mai eccessiva, mai sopra le righe, se non in maniera ovviamente intenzionale, legata a certi personaggi, a certe figure che in tutti questi anni Marco Martinelli, che è il regista e drammaturgo del Teatro delle Albe, ha spesso creato e disegnato insieme a Luigi Dodina e insieme agli altri loro compagni. Io ho molto apprezzato nel libro la metafora dell'attore operaio, che mi ha subito sedotto e spinto a chiedertene le ragioni, a saperne di più, è già subito una simpatia. Sentirtene parlare adesso mi viene anche in mente l'immagine della scuola e della bottega dell'arte operaia, operaia attorica, se vogliamo. E anche perché, se non erro, qualche tempo fa questo Il Volo vede in scena Max Penombra, se non erro. No, qui ti confondi. Però Max Penombra, perché tutti amiamo e apprezziamo, come dire, è protagonista di un altro spettacolo che si chiama Max era Max, è vero. Il quale Luigi Dodina ha aiutato, diciamo, l'allestimento con consigli, suggerimenti, una specie di regia, specie di, nel senso che non è stata una produzione formalmente. Ed infatti allora mi attacco a questo per dire che bene o male c'è anche una scuola di questo di questa trasmissione di saperi, no? È una personalità che mi ricordo nelle parole di Max Penombra, era anche generosa nel trasmettere. Sì, allora sicuramente, ecco, una cosa che ti rispondo anche accennando a un aspetto di questi miei racconti che considero molto importante. Allora, questo libro di racconti è un libro a tante voci. Principalmente c'è la voce di Luigi Dadina e c'è la voce mia. Questo libro è stato costruito attraverso 4 anni abbondanti di dialoghi con lui, che sono seguiti ad altri 15 anni circa di conoscenza, di collaborazione. Bene, in questo libro però ci sono anche i racconti e le voci di tante persone vicine a Luigi Dadina. Uno di questi è Max Penombra, e poi ci sono anche le voci di tanti attori che hanno iniziato a lavorare con il Teatro delle Albe a fine anni 90 in occasione di uno spettacolo che ha avuto un grande successo, tra l'altro non solo italiano ma internazionale, che si chiamava I Polacchi da Gervais. Bene. E molti di questi attori che sono ancora nel Teatro delle Albe da, a questo punto, da diciamo quasi, se non sbaglio, 20 anni quasi, ecco. E, ecco, io ho dialogato anche con loro, la loro voce è presente nel libro, e tanti mi hanno proprio parlato di Luigi Dadina un po' in questi termini che tu, Fedro, stai accennando, cioè di cosa loro hanno ricevuto da lui come insegnamento. E questo insegnamento, e questo l'ho trovato ulteriormente interessante, è sempre stato un insegnamento che loro mi hanno raccontato aver ricevuto sia su un piano strettamente scenico, artistico, attoriale, ma anche e soprattutto forse su un piano più largo, diciamo di etica dello stare in una compagnia, di etica del lavoro, e quindi in qualche modo, usando forse un'espressione un po' retorica, qui si mescolano l'arte e la vita in un, come dire, in un intreccio veramente non solo forte e indissolubile, ma anche, mi viene da dire, totalmente intenzionale. Cioè non è un caso che in una, ad esempio in una intervista che feci a Luigi Dadina molti anni fa, lui mi disse: per noi come Teatro delle Alpe è ugualmente rilevante capire, non so, quale testo mettere in scena l'anno prossimo e quale furgone acquistare perché quel vecchio non funziona più, oppure come appunto dare lo stipendio tutti i mesi a tutti quanti, dare a tutti un trattamento equo, eccetera. Io, per dire, in questo... E devo dire che questo è un aspetto fondamentale del fare teatro, che in Italia manca completamente, cioè si... Sì, di solito manca. E poi, tra l'altro, un altro aspetto che ci terrei a sottolineare, perché nella mia esperienza di conoscenza di questo mondo, io personalmente non l'ho mai sentita una cosa così, poi magari invece accade anche altro, io non l'ho mai sentita. Ho parlato appunto in occasione di dell'elaborazione di questi racconti anche con tutte le persone che lavorano negli uffici di Ravenna Teatro. Sono varie persone che si occupano di organizzazione, promozione, amministrazione, eccetera, eccetera. Bene, varie di queste persone mi hanno raccontato di momenti in cui Luigi Dadina, che appunto, come accennavo, è anche presidente di questa cooperativa, e quindi con anche preoccupazioni molto concrete, molto materiali, molto prosaiche, diciamo così, momenti in cui lui, per come dire, fronteggiare momenti di difficoltà, passaggi complessi, diceva magari a queste impiegate degli uffici, diceva: domani o non so, settimana prossima, magari invece di venire a lavorare in ufficio tutti i giorni, un giorno stai a casa e leggiti un libro, leggi delle poesie, vai a vedere un film, fai una passeggiata, cioè arricchisci il tuo essere persona anche come soggetto culturale, soggetto sensibile, ecco, diciamo così. Questo aspetto qui io l'ho trovato estremamente interessante anche in occasione di un momento che io racconto nel libro, laddove a fine anni 90, inizio anni 2000, Ravenna Teatro, insomma, si trova in un passaggio con delle difficoltà finanziarie molto grosse, che quasi sembravano portare a una chiusura, poi invece è stato risolto, eccetera, eccetera. Bene, anche in quel momento lì Luigi Dadina propone, insieme a Marcella Nonni, propongono a tutte le persone che si occupano della gestione di questa impresa di fare degli incontri in cui si consigliare modi per risparmiare fondi, per ripianare le economie, ma anche chiedono: portateci una poesia, portateci un testo letterario che possa essere stimolo per questo momento. Ecco, questa apertura io personalmente, nella mia esperienza, devo dire, non l'ho mai assolutamente incontrata in nessun'altra realtà artistica che io abbia avuto modo di conoscere, e trovo che sia per me interessante nel senso di un uomo di teatro veramente con uno sguardo molto molto largo, ecco. Abbiamo una domanda in studio, abbiamo una domanda. Sì. Certo. Michele, volevo chiederti, ma giusto se mi rispondi con una battuta, insomma così, ma giusto, che cosa ci porta in dono, cioè il lettore che legge questo libro? Perché mi sembra di capire che non sia esattamente una biografia in sé, no? Cioè, se ho capito bene, cioè, ecco, non è proprio una biografia, no? Dico bene. E cioè lo sì, no, in realtà lo è, diciamo, sì, ecco, non sì. È ecco, quello che però la non biografia è, non... è il pretesto per dire qualcos'altro, dico bene? Sì, sì e no, nel senso, allora, vabbè, adesso provo a rispondere in maniera molto sintetica. No, però la domanda, sì, immagino, però la domanda era che cosa ci porta in dono, ecco. Sì, sì, ecco, allora, che cosa ci porta in dono? Per me, diciamo, dal mio punto di vista, quello che porta in dono è lo stare vicini a una biografia, a una vicenda umana, alla vita di una persona che... è una persona che è un uomo di teatro e quindi assolutamente è un libro che racconta quello, ecco. Però non vuole essere, a partire dal titolo Racconti, ecco, non vuole essere per niente un libro solo per addetti ai lavori, laddove molti saggi, molti testi hanno, come dire, lo scopo di parlare a chi già sa, a chi già conosce, quindi dando per scontato tutta una serie di fatti e di informazioni. Nella elaborazione di questo libro io ho chiesto anche a due persone che mi sono vicine e che però non sanno nulla del teatro, non sono particolarmente interessate a questo mondo, di leggere le bozze e di dirmi se c'erano dei punti che non erano chiari. Un paio di cose me le hanno suggerite come aggiustamenti, io li ho assolutamente apportati, perché veramente questo vuole essere un libro in questo senso molto aperto, ecco. Quindi diciamo che cosa porta in dono? Secondo me potrebbe portare in dono la possibilità di stare vicini per circa 200 pagine alla vita di un uomo che è una vita totalmente intrecciata al teatro, nello specifico al Teatro delle Alpi, ma è un racconto che non vuole essere appunto chiuso, non vuole essere escludente, non vuole essere di separazione, ma al contrario, questo per me è stato veramente anche un atto di affetto e di rispetto nei confronti di Luigi Dadina, la cui, come dire, credo costante preoccupazione nel suo fare quotidiano è quella dell'includere le persone. Lui adesso non c'è modo qui chiaramente di riassumere. Possiamo dire con una battuta per chiudere, ci porta in dono la poesia di una vita dedicata al teatro, possiamo dire così. Possiamo dirlo, lo diciamo, perché al momento siamo arrivati al crinale della metà trasmissione e io sapete che sono austro-ungarica per mandare le pubblicità in orario. Quindi Michele, ti ringrazio tantissimo per essere stato qui, spero che più avanti, magari in occasione di qualche altro nuovo evento, tu possa venire qui in studio così da affrontare, magari entrare ancora più nel dettaglio della struttura del racconto, del libro e dei vari racconti, magari anche andando a chiamare al telefono le persone che sono state coinvolte per avere questi feedback e rendere ancora più viva questa poesia che tu hai traslato nelle pagine. Certo. Grazie Fedra e grazie ai tuoi colleghi e ospiti di questa sera. Sì, sì, continua ad ascoltarci, ciao, così scoprirai chi sono, che ancora non l'ho svelato. certo, e sono qua. Un bacio, ascolto. Michele, grazie mille. Grazie Fedra, ciao, grazie ciao. A voi. Ciao. Buonasera. E questa era una puntata ovviamente dedicata a... Vediamo se parte il jingle. Arte contemporanea. No, è quel jingle sbagliato. Era questo. Performance, ricerca, teatro. Cox spaziale. Eccoci, buonasera a tutti di nuovo, siamo tornati e, come diceva prima Fedra, siamo con un carissimo amico col quale abbiamo collaborato forse 10 anni fa l'ultima volta, però per diversi anni. È un attore e regista greco, si chiama Yorgos Bakalos, è qua in città per una serie di di workshop che farà tra Bologna e Ferrara. Hi Yorgos, ovviamente non parla italiano, però parla inglese. Quindi yeah, in English, please. Non parlare italiano. Do you wanna say just you just arrived this morning in Bologna? Just your first impression after 10 years about the city? Still beautiful city. I forgot how beautiful it is, Bologna. Revealing day, nice weather. You know, nice people around. I enjoyed it a lot. Okay, you arrived directly this morning from Athens. Yes. What's about the situation in Athens about performing arts and performing your arts. Job in... Yeah. Performing arts in Athens is really very vibrant at the moment. You understand? Economical crisis. Io traduco, allora c'è la situazione ateniese è molto vibrante per quanto riguarda l'arte della ricerca contemporanea, performance art. Yeah, there's a lot of stuff going on. Ci sono un sacco di cose che vanno avanti. Grazie, Pedro. And actually, if there was like a little bit more money, which I don't know if it's good or bad. C'erano anche più soldi. It would be one of the best in culture. Capital cities in Europe for sure. Sarà una delle, cioè al momento è una delle migliori città culturali in Europa. Because I think Berlin is off. London used to be, but it's still a bit off. Because they don't have the significance, they don't have a reason to make art. At least le altre città non hanno la necessità di fare arte, invece ad Atene, che sta risorgendo da questa forte crisi di cui tutti sappiamo, questa necessità c'è e quindi ci sono anche i frutti. We need art to talk, you know what I mean? To demonstrate, to say what we feel. To make the revolution. Or to express ourselves. Abbiamo bisogno dell'arte per dire cosa sentiamo e cosa ci serve. Yeah, it is very important. So you lived in London for a while. 11 years. Hai vissuto in Londra per un po', 11 years, anni, ho vissuto a Londra. So you know very well also the situation. Conosci bene la situazione a livello europeo, questo è vero, aggiungo io, perché fra l'altro di questo poi parleremo nella seconda parte. Io ricomincio a fare la matrigna cattiva e vi dico che al momento c'è da fare questa, la nostra rubrica. Lo sai qual è? No. L'angolo della menzione. E quindi cominciamo a leggere. Leggimi tu. Leggo il primo. Sì, che questa la sappiamo, allora, di cosa si tratta. Sabato 22. Sì, sabato 22, ore 11. Presentazione del libro Racconti su un attore operaio. Luigi Dadina nel Teatro delle Albe. Alla Biblioteca Malatestiana di Cesena. Seguendo i suggerimenti di Zavattini in merito al pedinamento del reale, Michele Pascarella, autore del libro, ha cercato di raccontare gli aspetti concreti e minuti. La storia di Luigi Dadina. E qua io devo mettere questo. Domani. Poi continuiamo con domenica 23, che avrei dovuto avere la telefonata, però non ho fatto in tempo. E comunque ho visto che già in trasmissione, già tutto il palinsesto ha già parlato del Festival della Zuppa in tutte le sue parti, quindi Lidia mi perdonerà, magari la chiamiamo la settimana prossima. Ma tra l'altro noi conosciamo Lidia Buchner perché facciamo una performance insieme al Festival. Dai, sarebbe magari provo a richiamarla verso la fine, così facciamo questa carrambata, sì, vediamo sì. Se... Ma quanti anni fa? 12 anni fa. That actually was the moment in which I met Yorgos for the first time. Exactly. It was a fest festival. It was 2005. In ogni caso, ritorniamo a noi. Domenica 23 alle 16:30, Festival Internazionale della Zuppa al cortile del Centro Sociale Pilastro. L'immancabile appuntamento annuale è giunto alla 11ª edizione. Chi si aggiudicherà il mestolo d'oro quest'anno? Potresti essere anche tu. Sono ancora possibili, le iscrizioni last minute. Ho letto malissimo, però da domani su www.coxospaziale.blogspot.com trovate tutti i link per correre ai ripari e iscrivervi, ma credo vi possiate iscrivere anche in loco domenica alle 15, ci sarà apposta un banchettino. Invece, per introdurre la prossima menzione, che ritorniamo anche lì di nuovo a parlare di teatro, teatro è il main theme of teatro and performing arts. Io partirei con questo brano sonoro, cioè con un brano che ci porterà un pochino nelle atmosfere sonore che sono all'origine di questo spettacolo di cui andremo a parlare tra poco. Abbiamo sentito questa atmosfera sonora. Wow, complimenti Federica, bellissimo. Ma mi hai bruciato così la sorpresona. Abbiamo in linea appunto Maria Federica Maestro. Mi è scappato. Che appunto ci parlerà di quello che andremo a leggere adesso, ovvero della menzione che avrà luogo martedì 25, che in realtà certo. Ciao Federica, ciao. Benvenuta al COX di nuovo, sei sempre la benvenuta. Allora, grazie. Diciamolo insieme a questo punto, visto che insomma leggere sarebbe una pesanteria. Comunque si tratta di una creazione che andrà in scena per la prima volta il 25 aprile alle 18 e poi in replica fino al 30 con altri orari che si vedranno nel sito, che da domani sarà visibile su www.coxospaziale.blogspot.com, e si tratta di Action T4, dico bene? Giustissimo, perfetto, anche se c'è già una minaccia nel dirlo, perché è appunto questo programma nazista di soppressione delle persone, bambini e anche adulti con handicap sia fisici che psichici, e che portò alla morte prematura di circa 400.000 persone, quindi dove il regime sperimentò per la prima volta un progetto di distruzione di massa. Quindi, scusami un attimo perché a questo punto rischiamo di perdere il filo con chi ci ascolta. Questo spettacolo fa parte del ciclo di spettacoli che è stato creato attorno al tema della resistenza dell'Olocausto, come Kinder, di cui abbiamo parlato un mese fa, se non erro, giusto? Esatto. Quindi certo. È questo percorso di ricerca che va a trattare con le vostre corde poetiche e la vostra scrittura scenica questi argomenti che sono realmente radicati nella nostra storia. Quindi mi sono permessa questo cappello perché non avevamo letto ancora la menzione, quindi diciamo che parlare di nazismo così dal nulla poteva sembrare un po' decontestualizzato. Comunque ho letto nella presentazione una cosa molto interessante, che questo T4 sta per il numero di una via e il numero civico di una via. Dico bene? Esatto. Tintergangstrasse, che è una via di Berlino, che era appunto la sede dei medici scienziati che hanno istituito questo progetto. Quindi è un nome in realtà che ci ricorda, no? il giardino di Berlino, è un nome poetico che in realtà ha nascosto nel passato, negli anni 40, questa come dicevo prima, questa programmazione del tragico, direi. E il lavoro, come giustamente ricordavi tu, si inserisce e voglio sottolinearlo, in un progetto permanente che l'ENS ha deciso dall'anno scorso di seguire. Quindi sarà una specie di lunga narrazione attorno ai temi della resistenza e dell'Olocausto, naturalmente con il linguaggio del nostro teatro contemporaneo. E quanti attori saranno in scena per questo Action T4? Ecco, la cosa importante è che in scena sono 5 attori che noi chiamiamo sensibili, cioè 5 attori straordinari che vengono, alcuni con esperienza decennale come Barbara, altri leggermente più recenti come Carlotta, insieme a un danzatore, a una baritono e una giovane attrice, che incarnano, quindi proprio si confrontano in un dialogo serratissimo con le vite di persone disabili, quindi con queste vite perdute, e hanno un dialogo cosciente, fitto, ma assolutamente poetico, quindi insomma è un po' genettiano, no? I neri che interpretano i negri, ecco, questa è la stessa misura di un dialogo appunto profondo e diretto e autentico con la propria identità. E a che punto siete con i preparativi per il debutto? Ah, guarda, oggi abbiamo lavorato, siamo infatti abbastanza stremati perché abbiamo fatto 3 filate, quindi direi che siamo molto avanti. Loro sono ovviamente, come tutti, no? Tesi, ma il periodo di prova è stato intenso, lungo, e ha permesso anche una moderna e modalità di composizione, quindi voleva dire che non ci siamo addossati subito, no? L'impatto della realizzazione dello spettacolo, ma abbiamo costruito un percorso morbido attraverso il quale loro sono arrivati ad avere una totale padronanza della scena, cioè non ci sono altri attori se non loro 5, e con una costruzione poetica impegnativa. Maria Federica, prima di salutarci abbiamo una domanda dallo studio. Gianluca in veste W Beccari, che sta conducendo la puntata in veste straordinaria con me, che lui è un regista di multimedia art, e ha una domanda. E niente, i complimenti sulla musica l'ho già fatti, quindi li faccio ancora, però, perché mi è piaciuta molto. Bene, no, anche perché insomma ha reso parecchio l'atmosfera, insomma. No, ma la domanda era: questo programma, secondo te, di eutanasia esiste ancora oggi, e se sì, in che forma? È una domanda complicata, importante, insomma, secondo me bisogna avere diverse angolature nel rispondere, ma come immagino anche tu l'hai nel formularla, cioè allora dipende dall'interpretazione della motivazione. Allora, nel nazismo la motivazione della soppressione delle persone con handicap nasceva da una ragione economica oltre che ideologica, cioè era funzionale a un programma di ottimizzazione delle risorse, e questo è quello che la rende imparagonabile, ecco, imparagonabile a qualsiasi altra forma. La scelta poi appunto di una madre di non dare alla luce un figlio che abbia patologie o che abbia un handicap è una vicenda completamente diversa, che nasce dalle ragioni personali e soprattutto nasce dall'idea che un bambino non sia stato ancora concepito, quindi che ci sia tutto un altro progetto di vita che non viene realizzato. Qui si trattava di bambini esistenti, con la loro famiglia, quindi con tutta una serie di sistemi già evoluti della personalità, e quindi io non trovo che ci siano paragoni e paralleli. Ci sono forme certo diverse in cui si affronta la vita e la morte, ma non scambierei il progetto appunto di eugenetica nazista con qualsiasi altra modalità che oggi esiste di autodeterminazione della vita e della morte. Il nostro co-conduttore di stasera sta mettendo alla prova tutti i nostri ospiti telefonici, e Federica, ti ringrazio tanto per la risposta, Federica. e soprattutto per essere stata anche così concisa, perché il must che avevamo era quello di stare entro i 5 minuti e sei stata alla perfezione. Quindi grazie mille per essere stata con noi. Come al solito, spero di averti una volta insieme ai tuoi collaboratori qui in studio. So che la distanza è tanta, al massimo ti porteremo lo studio a Parma. E intanto ci vediamo da mercoledì in poi, da martedì in poi alla Fondazione Lenz, al teatro, al vostro teatro. Perfetto. Vi aspetto, grazie davvero. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. È così, e dobbiamo continuare. Abbiamo un'altra menzione che potrebbe leggere il nostro amico Yorgos. Yes. So. Puoi leggere anche mercoledì? Yes. 26, I guess. 26. venerdì. Venerdì 28. 28. Dalle? Dalle ore 20. Ore 20. Symbiosis, movimento, oggetto, oggetto, testo, at Mama. Yes, al Mama Club. Che sarà club, okay. Un workshop. Che sì, il Mama Club è in via San Felice 107. Esatto. Ma comunque facciamo leggere a lui che è il grande. You are protagonist, okay, of this mansion. Workshop intensivo di teatro fisico condotto da Yorgos Bakalos, performer. Without VW, for two. Yes. Performer ateniese attivo a livello europeo. L'evento è parte di un ciclo di incontri che permetterà a Bakalos di incontrare performer, danzatori ed artisti che saranno chiamati unirsi ad una compagnia internazionale di prossima formazione. Wow. Ecco qua, beccate. And in fact it's true, because here is the master of a situation. We have now you translate. Thank you, Fedra, thank you. Grazie. No, infatti tu sei qui, dear Bakalos, with a W. Come si possono trovare informazioni? Beh, da domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete il link degli eventi e tutti i riferimenti per partecipare a questo workshop, che avrà luogo appunto il 26 e il 28 dalle 8 in centro a Bologna, in via San Felice, in via San Felice. Sì, come piace a noi la ricerca vera. And ma andiamo un pochino più nel merito. Io vorrei sapere, and maybe you can translate. Io vorrei sapere di questa compagnia internazionale che si profila come una rete di attori che sono disseminati in Europa, che vengono attivati laddove tu hai bisogno di andare a lavorare. To activate when you need to work. Indeterminate place. Yeah, I mean, what actually it is, a basic plan is to work in three minimum countries in Europe. La base, il piano è quello di lavorare almeno in tre paesi in Europa. Which is Greece, London, which I was for 11 years, and of course Atene, Londra, and Italia, Italy. Bologna. And more likely if there is a possibility for Cyprus later on, but this is going to be. E probabilmente ci saranno le possibilità di procedere oltre. So, a Cipro. Yeah, so it's anche a Cipro. Yeah, it's like a European funding that we would like to collaborate and to develop work in these three or four different countries. È un fondo europeo che permetterà di collaborare. Sì, no, per sviluppare progetti in tre o quattro diverse nazioni. So we will go in different these three different in one year, in three different. In un anno si andrà in tre differenti paesi. And to do like intensive work for 2 weeks, facendo il lavoro intenso, lavoro intenso con gli attori per due settimane. And then what we will do, we will documentate that and we will perform it in small spaces or in a public space or in a site specific. And quindi then documenteremo poi le performance che avremo in site specific o anche nei territori pubblici, insomma nelle piazze, cose così. And this is will gather all in Athens. And the last city, so e we will gather all the material. Si raccoglierà tutto il materiale ad Atene. And in collaboration with a gallery like Beton 7. E in collaborazione con la galleria Beton 7. We will present the documentation and we'll have an open chat to exchange the experience that we have with all this exchange of actors and artists. Ed da quel punto avremo la nostra restituzione dei materiali e faremo un punto della situazione creando. And some work, of course, will be presented like in these 2 days. Like we will select some. E ovviamente selezioneremo i materiali che sono stati realizzati durante l'anno per restituirli in determinati spazi. And we will have a kind of a durational small piece for a couple of hours, so for people come in and out and just check what's happening. E quindi le performance dureranno un paio d'ore nei vari posti, così che il pubblico potrà andare e venire e avere una percezione, una fruizione di questo processo di ricerca. Yeah, that's the plan. So, quello è il piano. So that's why we're here. We just have the first attempt that happened already in Athens. It's going to happen immediately after Italy in Cyprus. Uh-huh. And then in autumn we will go to London to do a workshop there. Okay. And then we'll have a first draft and then we'll carry on for adesso puoi tradurre weeks. Tu se vuoi. Ah, sì. Giusto per darci un po' di cambio. Sì, sì, dopo questo, questa tappa in Italia, sì, Yorgos si sposterà, dice, a Cipro e poi per fare la stessa cosa più o meno e poi a Londra in autunno. E poi vediamo come si sviluppa il progetto, perché ovviamente è in divenire. Insomma, okay. Tutte le persone interessate a partecipare, che sarà un laboratorio sì, performativo di teatro fisico. Sì, i laboratori al momento sono qui a Bologna e poi in Romagna, dico bene? Beh, sì, no, in realtà a Ferrara, sì. A Ferrara, che non è, che non si capisce mai di chi sia. Ce la prendiamo noi veneti allora la prossima volta, che fanno anche lo spritz buonino. E quindi a Ferrara e a Bologna e sono le occasioni per incontrare e quindi accedere a questo progetto. Sì. E ripetiamo le date per la tappa bolognese, che quella ferrarese è già blindata, dico bene? Sì. Mercoledì 26 e venerdì 28, due notti per andare incontro all'Europa. E a questo punto io farei così. Questa l'abbiamo fatta come menzione. Perciò andiamo con l'ultima. Chi la legge? Vuoi leggerla tu, Gianluca? Va bene. Giovedì 27, venerdì 28, ore 19:30, caffetteria Blu alla TSI. In scena al SI, lo spettacolo di Blue Motion. Formazione nata a Roma all'interno dell'esperienza artistica e politica dell'Angelo Mai. Si tratta di un atto unico scritto nel 1997 da Carrie Churchill, 1938, una tra le maggiori drammaturgie di lingua inglese. Ah, scusami, che... Ecco. Vuoi intervistare un altro pochino Yorgos in merito al lavoro che farà in quelle giornate? Certo. E... what will happen during this workshop? Che cosa succederà durante il workshop? This is a first attempt, let's say. It's not many hours, not many days, just mm-hmm. like a first approach. What is going to happen? We're going to... The theme is about the ridiculous. Okay, and the paradox. Ok, il tema sarà il ridicolo e il paradosso. Because recently what I'm interested in is, of course, it's like to work a little bit with more comedy, like more what is the funny side of ourselves. Mm-hmm. So, cioè lavorare sulla parte della commedia della vita, insomma, la parte diciamo più divertente di noi stessi. So I'm not talking about silly, I'm talking about ridiculous. Mm-hmm. So which is slightly different. Okay. And the idea is like... ridicolo. Yeah, so... And this is how it works together. It's like we're going to bring an object and some costumes and we will try to work on improvisation, how to bring out this persona that it will come out of your secret persona. Quindi, of yourself. Attraverso l'utilizzo di un costume, insomma, che ognuno dei partecipanti è invitato a portare ad un oggetto quotidiano, molto semplice, si cercherà di indagare, cioè la parte profonda di noi stessi, ma anche quella... ridicola, insomma, cioè mettere in scena quello che è persona, insomma, che è che siamo noi, insomma, ecco, cioè una ricerca di noi stessi, cioè looking for ourselves, the deep ourselves. Yeah, it is the persona is something, it's not a character like in theater, which is you, there is like a biography, there is like a complication so out of us and we have to approach it. Persona is in between something which is, it is a little bit theatrical, it's not yourself. Sì. But it's something really hidden that is revealed through the transformation. Ah. Of the qualcosa che si rivela di te stesso attraverso... Che tra te stesso e persona, il personaggio. Persona, un po' bella. E a questo punto io metto un jingle che non c'entra niente, però potrebbe starci. Creatività generica. Perché in realtà ci può stare alla fine. Indovina un po' chi è al telefono con noi? No. Gianluca? Sì. Eh sì? No. Sì, ha la Y nel nome, come Yorgos, ma è la seconda lettera. Wow. Ciao Lidia. Ciao Lidia. Lidia, ciao. Che strano. Lidia Buchner. Sì, che strano, dopo tanti anni qua. Cioè, tramite la radio, no? Sì. Ciao Lidia, benvenuta. Ciao, un abbraccio fortissimo intanto Lidia, subito così, sì. Con tanto affetto. Beh, adesso carambata a parte, contestualizziamo un attimo, perché ok che siamo in famiglia, però è con noi Lidia Buchner, dico bene il cognome, che io Sì, ho detto sì. Bene. E in, un altro nome suo è Lidia Oltre, Lidia Partot, Lidia, Lidia anche della del Festival Internazionale della Zuppa, dico bene? Sì, sono tutti soprannomi, sì, se vuoi, collegati sì, a certi progetti. Sì, certi sì. Progetti che sono, hanno fatto in modo che Bologna sia quella che è anche per certi versi, e quantomeno nel mio cuore. Perciò, benvenuta, qualche anticipazione sul Festival della Zuppa di quest'anno? Intanto invito tutti quanti, tutti gli ascoltatori e anche voi che siete là nella radio, di venire domenica 23 aprile in via Salgari o Salgari al Pilastro, dove si svolgerà per la seconda volta, non per la terza volta, il Festival Internazionale della Zuppa. E anche quest'anno ci sono una sessantina di zuppe che vi aspettano, che dovreste gustare tutte quanti per capire qual è la migliore, per poi eventualmente collaborare a mandare la zuppa vincente o a Parigi o a Berlino. Ah, quindi oltre il Mestolo d'Oro quest'anno si viaggia? No, è sempre stato così. Ah, che bello, sono arrivata. Ci sono arrivata anch'io alla fine. Avessi partecipato già, no? Se l'avessi avuto. No, ma io mi sono sempre chiesta, ma questo Mestolo d'Oro esiste veramente? Sì, certo. Ma è d'oro d'oro? Ah, dici così? Ma forse è un po' dorato con uno spray benissimo. Forse. Però l'oro è praticamente il viaggio. Il metodo d'oro della giuria di qualità è un viaggio per due persone o a Berlino o a Parigi, e quella della giuria popolare uguale o a Berlino o a Parigi, e ti fa a sorteggio praticamente. Ma dimmi un po', quali sono le tue puoi dirci quali sono le tue zuppe preferite in questi anni, oppure anche quelle che sono le favorite per questa edizione, se hai qualche soffiata? Allora, io rispetto alle zuppe non posso dirti molto, perché non sono mai stata nella giuria. Bisognerebbe parlare con quelli che fanno da anni, i giurati, e quelli della giuria di qualità da un lato, perché sono spesso anche le stesse persone, infatti quest'anno molti hanno avuto voglia di fare di nuovo il giurato. Che si assaggia un sacco. Che assaggia un sacco di zuppe, e però in conferenza stampa ho sentito un po', ci sono state fatte anche queste domande, e dicono che le zuppe che vengono da paesi piuttosto stranieri contengono molto zenzero, invece le zuppe di stampo più locale non contengono zenzero. Questa è una cosa che io so. Va bene, diciamolo che lo prendiamo come lo scoop per il Cox. Invece qui abbiamo una domanda dallo studio, dal nostro Gianluca Invest W Beccari. Sì, ciao Lidia. Ciao, questa sera mi fanno fare il cattivo. Io faccio, sono quello che faccio le domande, no, ma non cattive, le domande difficili. Non so se a quest'ora sono capace di rispondere, ma niente, guarda, però io te lo devo chiedere, insomma, così in diretta. Io ovviamente ci conosciamo da tantissimo tempo, e so che insomma tu hai lavorato tanto, tantissimo, insomma, nell'integrazione fra le culture, insomma, e quindi io ti stimo tanto, insomma, per questo lavoro che hai fatto, per questa delle zuppe, insomma. È geniale, insomma, nel senso che poi a tavola ci si mette sempre un po' più d'accordo, più facilmente tutti e poi quanti, anche, no? Un modo per rimettere, sì, insieme l'Europa, è aggregante la zuppa, no? C'è una... e quindi è una cosa molto semplice però molto bella, è molto importante. Ecco, però la domanda, insomma, te la devo fare, siccome so che sono, non so, forse 20 anni, forse di più, che lavori, insomma, su questo piano dell'integrazione, insomma, perché del far conoscere gli uni con gli altri, ecco, perché questo credo che sia importante in generale, insomma, quello del conoscersi. Ecco, però a distanza di tanti anni, come la vedi? cattivone. Come va? Allora, adesso una battuta, Lidia. Io mi ricordo che praticamente il primo festival che, sì, noi facevamo, me lo ricordo anch'io. No, era la seconda edizione, ah, ecco, che era ancora il centro interculturale. Sì, giusto. Io ero la seconda. Che ai tempi era un contenitore abbastanza vuoto, quindi era abbastanza semplice riempirlo. Sì, no, ma la prima me la ricordo perché me l'hai raccontata subito, sì. Sì. E tu sei stato il nostro grafico e hai fatto questo manifesto bellissimo, sì, che io infatti l'ho incorniciato, è a casa mia, sì, perché, sì, mi piace sempre. Ed era un aborigine, sì, me lo ricordo, con l'aureola. Sì, esatto. E se tu mi chiedi cosa è cambiato in tutti questi anni, allora secondo me La vita quotidiana è una cosa abbastanza dura, no? Il lavoro, diciamo, a 360 gradi nel campo socioculturale, io lo intendo così, è una cosa che dove ti muovi sempre tra culture sociali, che si può dire che ti muovi sempre tra due sedie o più sedie, che non è una cosa molto semplice, sì. Perché alla fine non si sa molto bene, sa né carne né pesce, sì. Però dopo 20 anni, in effetti sono 20 anni che praticamente si fanno delle cose qua, allora direi che magari la Borrigin c'è sempre, però l'aureola non saprei più dove sia. Grazie Lidia, sei stata simpaticissima come al solito. Grazie, è stato anche per me un piacere che il Cox abbia riunito questi vecchi sodali. Senti, venite la tua domenica, così ti vediamo, sì, hai ragione, eh? hai ragione. Allora ci vediamo. Ma aspetta che ho chiuso il file. Dalle 16 in poi. Domenica. Dalle 16 in poi. Perfetto. Alle 15 chi vuole iscriversi, perché c'è ancora la possibilità di iscriversi per gareggiare con la propria zuppa. Esatto. Scriva a festivalzuppa@gmail.com. Vengo a fare la giuria, uno di questi mi sa che arrivi un po' lungo adesso. Ma posto d'onore c'è. Invitami. Guarda, a fare la giuria. Anch'io. Ufficialmente, okay. Siete invitati ufficialmente a partecipare alla giuria. Okay. Va bene? Vai, grande. Allora, grazie, okay. Lidia. Ci conto, eh? Okay. Ci vediamo domenica. Un bacio, ciao. Ciao. Insomma, ti è piaciuto questa? Sì, grande sorpresa. Allora, senti, io ormai ero distratta perché stavo telefonando a Lidia e volevo fare questa sorpresona. Abbiamo pochissimo tempo, che fuori c'è il prossimo programma, ma abbiamo spiegato bene quelle cose riguardanti al nostro super mega galattico ospite in studio Yorgos Invest W Bacalos. Sì, un progetto fantastico che spero proprio insomma di farne parte comunque, ecco. Tra le altre cose vorrei anch'io partecipare, perché è quello in cui ho sempre creduto anch'io, insomma. Cioè Io ci vado, scusami. Mercoledì e venerdì mi sa che dovrò venire un po' al coxo, poi ritorno, però. Vabbè, staremo un po' di più. O se no faccio saltare il coxo per stare con voi. Lo facciamo coxo da là. Coxo da lì, da là. Va bene. E allora, la 179esima puntata del coxo è stata super mega galattica, grazie ai nostri ospiti qui in studio. Ciao, a tutti. Thank you very much. Thank you. Vuoi dircelo anche in ateniese? Yahara. Yahara. Addio. Addio, proprio. Ok, no, ci vediamo mercoledì, altro che. We'll see each other on Wednesday. Absolutely. Yes. For this big project. Looking for the future. Excellent. E quindi ciao, questo è il 179esimo coxo, che finisce così un po' in ritardo, scusatemi, e noi ci vedremo probabilmente, non lo so se ci sarà il 180 la settimana prossima, perché se vado da Yorgos come faccio? Pasquini è ancora desaparecido. Vabbè, proviamola così. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Tutti. Bye.